Tutti noi conosciamo almeno per nome alcuni dei grandi profeti dell'Antico Testamento. Oggi abbiamo sentito Geremia nel capitolo secondo, ma poi Isaia, Ezechiele, Amos, Gioele, Daniele. Voi sapete che i profeti sono, lo dice la parola stessa in greco, profeta vuol dire portavoce. Sono i portavoce, sono i messaggeri di Gesù, di Dio. Ed è veramente interessante sentire allora l'insegnamento che ci danno. Se oggi Geremia ci parla dell'amore che Dio ha per il suo popolo, veramente è un portavoce di Dio. E infatti è un testo bellissimo questo. Se avete il testo, se avete il messalino, potete seguirlo. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Quindi vedete che il Signore parla a Geremia e grida, va, grida agli orecchi di Gerusalemme. Guardate amici, è bello leggere la Bibbia anche cercando di capire bene le parole. Va, va, grida, non devi parlare sottovoce o di nascosto, devi gridare agli occhi di Gerusalemme. Gerusalemme è il popolo di Dio. Così dice il Signore: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore al tempo del fidanzamento. E parla come un innamorato al suo popolo. E siccome Gerusalemme rappresenta la Chiesa, rappresenta noi, sarebbe bello, amici, non solo ascoltarlo predicato da me, ma meditato da voi nel silenzio, nell'intimità del vostro cuore, sentire che il Signore dice ancora oggi alla Chiesa e a ogni figlio della Chiesa: mi ricordo di te, dell'affetto della tua giovinezza, dell'amore quando eravamo fidanzati, quando mi seguivi nel deserto, in una terra non seminata, c'era niente da fare, c'era niente da guardare, avevamo solo da stare insieme. È già una bella premessa questa, eh? Se riuscissimo a capire che noi siamo gli innamorati di Dio, Dio è innamorato di noi. È poesia, no, è parola di Dio. Il fatto è che noi certe volte di Dio conosciamo solamente quello che vogliamo, ma non conosciamo questi slanci d'amore. Israele era sacro al Signore. Quanti osavano mangiare la primizia del suo raccolto si rendevano colpevoli e la sventura si abbatteva su di loro. Giù le mani da Israele, giù le mani dal cristiano. Udite la parola del Signore. Dopo questa premessa cambia tono e dice: ma se vi amavo così, se voi mi seguivate come fidanzati, cos'è successo adesso che mi avete abbandonato? Quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e correre dietro al nulla, diventando loro stessi nullità? Ma non vi siete chiesti dov'è il Signore che ha fatto prodigi per noi, ci ha fatto uscire dalla schiavitù dell'Egitto, ci ha guidato nel deserto? Continua Dio: io vi ho condotti in una terra che è un giardino, È vero, amici, è vero. La natura, la creazione, la nostra terra è un giardino. Se voi la pensate dentro in tutto l'universo, ne avete mangiato i frutti, eppure mi avete tradito, avete reso una vergogna la mia eredità. E neanche i sacerdoti, neanche i sacerdoti si domandano: ma dov'è il Signore? E anche i professoroni della Bibbia, gli esperti della legge, non mi hanno conosciuto. I pastori, quelli che dovrebbero guidare il popolo cristiano, si sono ribellati contro di me. I profeti, invece di essere i miei portavoce, hanno profetato in nome degli idoli che non aiutano. Conclusione. Allora, avete visto i passi, no? Io ti ho amato, sei la mia fidanzata, sei la mia innamorata. Cos'è successo che mi hai abbandonato e hai dimenticato tutte le cose belle che ho fatto per te? Allora, per questo, io ti intenterò un processo contro di te. Ti farò causa, ti porterò in tribunale per giudicarti. Cari amici, cosa vuol dire questa parola? Non lo so, però dobbiamo stare molto attenti. Un amore tradito non tace. Un Dio tradito e rinnegato non ce la fa passare liscia. Qui dice: ti faccio un processo. Cosa vorrà dire? Non lo so. Provate a pensarci voi.